cose che riempiono la vita, altre invece pesano come storie già finite. Si annegano i ricordi, momenti ormai andati, quello che non scordi per come cominciati. Poi le tante volte con la voglia di fuggire, ancora un'altra volta per capire se le viene oppure resta solo il sogno disperato di una volta. I sogni aiutano la vita, quando siamo soli la rendono infinita, appesi ad un amore, qualcosa che è sentito, ma si ferma il cuore quando lo hai capito. Tante volte ancora poi tenti di tornare, morso dalla voglia di sognare. Poi da solo come un disperato, lasciare tutti i sogni e andare via. Rimangono le cose che riempiono la vita, anche i ricordi muoiono di storie ormai finite, restare a darlo ancora, a respirare vita, aspettando l'ora che finisca la salita. Ancora tante volte la voglia di gioire ti dà la forza ancora di salire lassù. Volare, sapere com'è stato a vivere il tuo sogno di una volta. Lassù, volare per dire com'è stato a vivere il tuo sogno della vita.